l'ultimo avanzo d'una stirpe infelice. De raccogliete voi. Cessò dell'ira il breve fuoco, sul nemico acciavo, abbandonarmi vo. Per me la vita vorrei il doppeso. Difatti tuttavia splende il castello, scarsa fu la notte al tripudio. Ingrata donna, mentre io mi struggo in disperato pianto, tu ridi e esulti accanto, al felice consorte. Tu delle gioie in seno, tu delle gioie in seno, io della Risveglia me le genere, Ad alem